al parcheggio. Buongiorno. Quant'è? Dunque, 2 ore e mezzo sono 5 euro. Ecco a lei. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Ma dov'è Andrea? Ah, Lorenzo! Eccoti qui. Ciao! Ciao, come va? Bene, grazie. E tu? Tutto bene, grazie. Ti presento la signorina Jenkins. Salve, piacere. Sono Andrea Lucchini. Anch'io lavoro per Italia Bella. Piacere. Sì, Andrea è un collega, ma è anche un amico. Lavoriamo insieme da quasi 5 anni. Troppi. Scusi, posso chiamarla Sara? He's asking if he can call you Sara. Oh yes, of course, certo. Andrea? Esatto, Andrea. Lei parla italiano. No, not really. Oh, ma come no? Certo, sa già molte parole. Da dove viene Sara? Da Cambridge. Ah, dove si trova la famosa università, vero? Sì, that's right. Anche la Top Qual si trova a Cambridge? No, it's in London, in Londra. A Londra. La società si trova a Londra, ma i supermercati si trovano anche in altre città. Esatto. E quanto rimane a Firenze? Oh, how long am I staying? Giusto. Sara parte martedì prossimo. Martedì? Troppo presto. Che peccato. Beh, è tardi. Dobbiamo andare. Sì, certo. Però prima devo andare alla toilette. Andrea, ma è tardi. Sì, lo so, solo un minuto. C'è un bagno proprio qui. E va bene. Dov'è la tua macchina? È là, vedi? Sì, quella nera a destra. Ci vediamo là fra 5 minuti, capito? 5 minuti. Capito, capito. E guidi tu. Io? Ma non so guidare. Ah, sì. Va bene. Noi andiamo intanto. Lorenzo? Sì? But Andrea is a man. Sì, è un uomo. Perché? I thought she was a woman. Una donna. E perché? Oh, the name. It's a female name. Non in italiano.